Oh. questa affannosa vita, andrai converso in angelo, al Dio consolo. Oh, Thank you. Thank you. istante, Elisabetta vuol che sia paga ogni tua brava. See you. perdute oppresse.